Breve vigilia della squadra friulana in un frammento dell'allenatore Marino. Noi abbiamo avuto la meglio, abbiamo vinto, però abbiamo fatto una grande partita e se vogliamo andare avanti la dobbiamo ripetere. Questo è il programma della vigilia, l'obiettivo. Sentiamo anche il direttore generale dell'Udinese, Leonardi. Noi sappiamo che è una partita troppo importante, che non può essere il clima a fermarci. Abbiamo fortunatamente dall'inizio dell'anno recuperato per bene Felipe Zapata e perciò siamo sereni. Se passiamo il turno entriamo nella storia, che non era mai successo, ma soprattutto, indipendentemente dalla storia, dare una grande soddisfazione alla nostra gente. In effetti l'Udinese non è mai arrivata ai quarti di finale di una manifestazione europea, direi che stasera ne ha ampiamente le possibilità, perché insomma 2-0 all'andata in Coppa è un eccellente risultato da difendere in trasferta. L'argomento del giorno è un altro ed è il Football Day di domenica 5 aprile, domenica delle Palme. Niente anticipi il sabato, il giorno precedente, e abbuffata domenicale quasi non stop dalle 13 Atalanta-Fiorentina alle 21 Milan-Lecce, passando attraverso il pacchetto classico delle 7 partite delle 15 e un pre-anticipo o un pre-posticipo, non saprei, sono come i pre-aperitivi e i pre-dessert e le mise en bouche delle 19 con Udinese-Inter, che è un po' il match clou della giornata. Decisione presa dalla Lega all'improvviso, che ha prima spiazzato e poi indispettito parecchie società. Ora, poiché prima ancora che calcistica è una vicenda televisiva questa, direi di chiedere lumi ad Antonio Di Polina. Buongiorno Antonio. Buongiorno, eccoci. Non solo perché non solo fai il critico televisivo a Repubblica, ma ti diletti, no, in casi come questi ad andare alla ricerca dei perché. Lo hai fatto sul tuo giornale. Come ci riassumi questa vicenda? Come può essere nata? Da chi arriva l'input? Quanti sono i malumori? Insomma, mettiamo insieme. No, partiamo dai malumori, sono forse la cosa più fresca. Sì. Molti presidenti ci sono rimasti male, più che altro perché non glielo hanno detto. Temo che siano più o meno gli stessi presidenti che quando si arriva alle strette e qualcuno gli fa presente da dove vengono i soldi con cui si tengono in piedi, certo. Si tiene in piedi l'intero baraccone, sono quelli che poi come dire, abbozzano. Si comportano di conseguenza e ne tengono conto. Rispetto al passato, rispetto ad altre volte che può essere successo qualcosa di simile, ma soprattutto rispetto agli ultimi passaggi delle gare internazionali durante la settimana, improvvisamente si è scoperto che il ritorno dei brasiliani e degli argentini, dei sudamericani, tra il giovedì sera, il venerdì e così via, diventa un problema, cosa che finora non, un problema che non si era mai posto, e infatti gli anticipi del sabato c'erano sempre stati. Evidentemente stavolta è diverso, o è successo qualcosa di un po' pesante l'ultima volta, oppure, non so, dobbiamo dire che c'era Milan-Lecce previsto il sabato sera e quindi una volta che magari al Milan hanno detto no, stavolta abbiamo un problema con qualcuno che ci torna tardi, facciamo un'altra cosa, magari lo stanno più a sentire, che viene ascoltato di più che se la protesta arrivasse da qualcun altro. In ogni caso è stato fatto ed è stato deciso, appunto, come dicevi tu, molto all'improvviso. A quel punto si può anche pensare che la domenica spezzatina fatta in quel modo diventi una sorta di test. A me come test non mi sembra così, test per il futuro dice, a me come test non mi sembra così probante, una volta che la cosa davvero in ballo è l'eventuale partita alle 13 e il 5 di aprile la partita alle 13 sarà Atalanta-Fiorentina, cioè non esattamente qualcosa che smuove le folle o che fa sollevare il paese, ovvero quella che in origine era prevista come il primo anticipo del sabato alle 18, quindi diciamo una partita un po' abbandonata a se stessa. Comunque, fatto sta che in ogni caso poi è prevalsa assolutamente la voglia di fare in questo modo e presto direi che le proteste dei presidenti rientreranno, certo, molto velocemente. È interessante, tu hai fatto il nome del Milan, in effetti ci sono buonissime possibilità che sia stato proprio il Milan ad ispirare questa questa novità, insomma, questa scoperta improvvisa del fatto che i sudamericani hanno problemi di rientro e chi gioca in anticipo dopo un rientro. Quindi, così come il fronte del malumore è stato cappeggiato a quanto pare dalla Juventus, il fronte invece di chi aveva promosso l'iniziativa potrebbe essere. Sentiamo un tratto da Sky, un frammento di Galliani a proposito di questo Calcio Day, che mi sembra molto significativo. Mi sembra una cosa logicissima, ben fatta. Peraltro le partite alla una, gli inglesi tutti dicono che le fanno per l'alcol, non è vero, o forse lo è vero in parte, lo fanno perché lunedì pomeriggio è il prime time nel mercato orientale, in Cina e in Giappone, dove arrivano molti ricavi, quindi ci stiamo allineando ai paesi più evoluti televisivamente. Quindi ovviamente plaudo l'iniziativa. Beh, insomma, direi che c'è più di un elemento, no? Mi pare, di interesse e di riflessione in questa dichiarazione. Possiamo anche porci una domanda, sì, sulle parole di Galliani. Un paese evoluto televisivamente è un paese evoluto? E su questo può partire un dibattito. Certo, è un dibattito che però pensiamo di concludere non prima della Domenica delle Palme. Assolutamente. Quindi questo è un primo parametro su cui interrogarci e fin lì ci siamo. Plaudo l'iniziativa e quindi questo, come dire, è un avallo alle voci che vogliono il Milan, se non altro tra gli ispiratori, se non l'ispiratore di questa eccezione. Sono interessanti anche le altre riflessioni, però, mi pare. Sì. È chiaro che il discorso del calcio guidato e teleguidato, in questo caso dalle televisioni, è sempre più che mai all'ordine del giorno. Galliani ha detto queste cose ieri e in un'altra stanza i vertici di Mediaset annunciavano, per esempio, che dall'anno prossimo la vecchia Coppa UEFA diventa una cosa che si chiama Europe League e viene trasmessa interamente sul digitale terrestre loro, salvo qualche partita di sicuro ascolto che invece andrà in chiaro, se non è una cosa fatta sull'onda della evoluzione sempre più televisiva del pallone, ditemi voi che cos'è. E alle viste, in lontananza, qui si tende un po', vedo, a prendere sotto gamba queste cose che vengono lanciate sulla famosa Superlega europea. Io invito a starci un po' attenti, perché se l'istinto o comunque quel po' di esperienza che uno si è fatto negli anni sulle cose che vanno a succedere vale qualcosa, direi che bisogna starci molto attenti, perché prima o poi a qualcosa del genere sento che ci si arriva. Come l'ha presa la Pay TV? Tu hai già accennato prima al fatto che un anticipo come Atalanta-Fiorentina, se parliamo di masse di telespettatori, certamente non le smuove. Ti faccio questa domanda perché distinguerei tra le reazioni del pubblico, cioè degli utenti, poi in realtà, e tra quelle invece. Allora, abbiamo parlato di quelle dei club. Come l'ha presa la Pay TV, cioè Sky nella fattispecie, a parte invece il pianeta Mediaset Premium, che insomma, evidentemente hai già introdotto, tra l'altro, no? Sì, guarda, cerchiamo di essere i più oggettivi possibili. È assolutamente ovvio che far saltare un anticipo del sabato sera a Sky non può far piacere fino in fondo, perché è in ogni caso una partita, uno degli appuntamenti dell'intero pacchetto Sky, compresi cinema e tutto quanto, più seguito in assoluto, soprattutto se ci sono di mezzo Milan, Inter e Juve, e stavolta ci sarebbe stato il Milan. Diciamo che sulla pressante richiesta arrivata in merito, poi anche loro hanno un po' abbozzato, tenendo conto che non era appunto un turno clamoroso, in fondo era un Milan-Lecce, in fondo si creava molto più che la partita alle 13, che insisto, viene abbastanza ridimensionata in quell'ambito di Atalanta-Fiorentina. Bisognerebbe probabilmente lanciare un po' di più la domenica night, il night domenicale, in questo caso con l'Inter alle 7 e il Milan alle 9. Dal loro punto di vista questo sì che può essere una sorta di esperimento per vedere se funziona. Per capirci, se la vera novità, che è quella delle 19, Udinese-Inter, dovessero loro scoprire che viene molto seguita, allora magari su quello, su quella fascia, su quella possibilità che si potrà ragionare per il futuro. Certo, secondo me molto più per della partita delle 13, che come ha detto Galliani è importante per il mercato giapponese e orientale, comunque dell'estremo oriente, cosa che magari dove apprezzano per qualche strano motivo più il campionato inglese che il nostro. Per qualche stranissimo, incomprensibile motivo. Ti giro un messaggio appena arrivato da un ascoltatore di nome Valerio che scrive da Ercolano. Non trovate anzi che il campionato sia già spezzettato molto e con questa innovazione quantomeno si riesca a compattare tutto in un giorno? Guarda, la mia prima reazione è stata proprio... quella di Valerio da Ercolano. Bene, la primissima reazione, quando l'ho saputo, ho detto c'è caso che questa cosa somigli di più a... vada più incontro a quelli che rimpiangono la scansione calcio di una volta. In fondo si parla di un giorno solo, in fondo il sabato viene salvaguardato, sparisce tutto e così via. Quindi un po' c'è questa cosa. Dopodiché, una cosa che non abbiamo detto prima, dal punto di vista di Sky, bene o male il contratto alla lettera viene rispettato. Ci sono 3 partite svincolate dalle altre 7 e ci sono le 7 accorpate la domenica pomeriggio, che è per far contenta la Rai per il suo 90esimo minuto. Quindi sì, è un'interpretazione che in realtà ci può stare, però come dire, su calcio e televisione, per i motivi che abbiamo detto, e sugli intrecci si è sempre un po' più guardinghi del solito sulle cose che succedono. Chiuderei con una tua valutazione su questa mail che sta girando su internet, che è una protesta dei tifosi juventini, ma non è una protesta di ultra. Presentiamo una vibrata e dura protesta, adesso lasciamo stare il linguaggio, ma è una protesta estensibile ai tifosi di qualsiasi altra squadra che avessero subito o subiranno lo stesso trattamento. Siamo stufi delle troppe partite in cui la Juventus si è impegnata il sabato sera, serata tradizionalmente dedicata alle famiglie. Noi abbiamo mogli, fidanzate, figli, famiglie che non troviamo giusto trascurare per seguire la Juve, e d'altra parte alla Juve non vogliamo rinunciare. Dopodiché fanno 2 righe di conti: con Roma e Juventus saremmo arrivati a 14 sabati sera di Juventus, di cui gli ultimi 5 consecutivi. Quello che ho trovato diverso rispetto a questi messaggi che circolano in rete è questo: la nostra protesta resterà ancorata alla civiltà, assolutamente non violenta, perché siamo persone per bene, eccetera. Voi media dovreste cercare di favorirla in maniera che noi si continui a frequentare gli stadi e non li abbandoniamo sempre più in mano agli ultra. Come vedi un movimento popolare che insomma, un po' alla volta, forse, non dico si sta facendo strada, ma sta cominciando a venire fuori? Mi ispira molta tenerezza e sono assolutamente solidale. Grosso modo sarebbe come, vista la situazione, non lo dico con giudizi di merito o di valore, grosso modo è come un movimento che rimpiange le cabine telefoniche per strada, che non ci sono più. La situazione oggettiva è quella che abbiamo detto, tutti i modi per combatterla o per far sapere che comunque sull'esagerazione non si è d'accordo vanno benissimo. Quei dati sulla Juventus il sabato sera confermano peraltro quello che dicevamo prima: il sabato sera è uno spazio straimportante per il Pay TV, e quindi la Juventus, in quanto squadra con il maggior numero di tifosi, è fatalmente destinata a finirci dentro finché comanda chi mette tanti tanti soldi per reggere l'intero baraccone in questo modo. Quando si dice fatalmente, poi è anche giusto, è ovvio che in vari momenti, in vari modi, per quanto è possibile, invece si possa anche dissentire, protestare, far valere qualcosa, e quindi ben vengano. Insisto, la situazione, come dire, mi sembra però molto compromessa da questo punto di vista per il futuro. Cioè, va a finire che la soluzione finale potrebbe essere questa cosa estemporanea che è nata, cioè farcire una domenica intera, magari, no? Magari questa cosa ha successo, funziona e si scopre che si torna, se non altro, all'unità domenicale, anche se non ci crediamo molto. Potrebbe anche essere, io mi metto solo lì al varco ad aspettare cosa dice la Juventus e le altre squadre quando Sky dirà: beh, si intende che se io non ho più il sabato sera televisivo, l'anticipo del sabato sera, allora bisogna decurtare i soldi. A quel punto mi divertirò molto a vedere cosa sei già idealmente sulla riva del fiume, senza nemmeno bisogno della canna da pesca per tirarli su, no? In fondo è abbastanza, tutto abbastanza prevedibile. Quando si attaccano le televisioni, giustissimamente, da questo punto di vista, ricordiamoci anche di attaccare e di prendercela anche con chi è del tutto connivente con le televisioni, in quanto vive e spesso benino dei proventi delle TV medesime. Facciamo quelli che guardano la situazione da tutti i lati, capiamola di più e protestiamo dove c'è da protestare. E ricordiamoci che non sono più le cabine telefoniche, ma si parla forse anche al cellulare. Grazie Antonio. Grazie a voi. Abbiamo sentito di questa novità, l'ha commentata Antonio Di Pollina. Adesso è l'ora, è il momento, se volete, dei vostri commenti, che alternerò però con una lettura molto interessante tratta dal Corriere della Sera di stamattina. Allora, per il momento il primo intervenuto all'800 24 0024 è Luca da Roma. Buongiorno. Buongiorno, vorrei fare un tuffo nel passato. Mi è capitato di conoscere, non so se lo ricorda, Massimo Piloni. Massimo Piloni era portiere della Juventus e poi della San Benedettese. La riserva per antonomasia, giocò 12 partite in 10 anni. E allora mi ha raccontato che però faceva parte sempre della Juventus. Certo. E quindi mi ha detto, dice, quando andavamo in giro la gente chiedeva gli autografi anche a me. Poi mi disse che aveva somatizzato talmente il ruolo della riserva che quando gli capitava di andare in auto o in treno e vedere un campo di calcio, il primo sguardo era sempre verso la panchina. E poi mi ha detto che le due signore, la sua e la moglie di Zoff, si frequentavano e i primi tempi andavano allo stadio insieme. Se non che, come salivano dai gradoni, a quel punto c'era uno strabismo eloquente. La signora Zoff guardava subito in porta, la signora Piloni guardava subito in panchina. Anna guardava in porta e la signora Piloni in panchina. È molto divertente tutto questo. Risale a un'epoca in cui non solo Zoff era inossidabile e ha fatto invecchiare Piloni e Bodini, i suoi due vice storici della lunga carriera alla Juventus, ma tutto il calcio di allora godeva di miglior salute, no, rispetto a quello di oggi, per cui Zoff era, ripeto, inossidabile di suo, ma gli infortuni in generale erano molto, molto più radi e soprattutto di minor gravità rispetto a quello di oggi. Quindi intanto c'era un solo portiere di riserva e oggi sono almeno due in ciascuna squadra. Quest'anno il Napoli ha dovuto ricorrere al quarto e a un certo punto erano infortunati in tre e ha comprato, insomma, ha riscattato la lista di Bucci, l'ex Parma per esempio, e tante altre squadre, perché hanno dovuto ricorrere addirittura al quinto. Era un altro calcio, anche da un punto di vista di salute, no? Evidentemente, che era la base poi da cui nascevano queste cose che lei ha raccontato in maniera divertente. Daniele ha chiamato dalla provincia di Como. Buongiorno. Sì, buongiorno, Lanzini. Dica. Dopo i 300 gol di Inzaghi, che comprendono anche quelli di Serie B, mi sono chiesto se ci sono stati giocatori, appunto, di Serie B o C che hanno segnato nel complesso come Inzaghi o addirittura di più. Che ad esempio una quindicina di anni fa mi ricordo che c'era un certo Cornacchini che segnava caterve di gol e mi chiedevo se potevate soddisfare questa mia curiosità. Daniele, non ho sicuro. Vediamo se un po' alla volta riusciamo a mettere insieme delle ricerche, però sinceramente non saprei e non le garantisco nulla. La mia memoria certamente non è all'altezza di questo e nemmeno il mio gusto per le statistiche. Le leggo volentieri le statistiche, soprattutto quelle interessanti. Già questa dei 300 mi fa impazzire fino a un certo punto. Sentite invece questo articolo pubblicato stamane dal Corriere della Sera e firmato Fabio Monti, e cioè certamente il giornalista più, intanto di una serietà e attendibilità a prova di carriera ormai lunga, ma direi in assoluto e da molti anni il più documentato su tutto quello che attiene a casa Inter. Scrive Fabio in un lungo articolo, virgola la prima parte, cose da Inter, già viste e sentite, ma stavolta la realtà ha superato la fantasia. Massimo Moratti, che risulta essere l'azionista di maggioranza nerazzurra in rientro dagli Stati Uniti, si ritrova messo in minoranza da José Mourinho, il suo allenatore, e da Zlatan Ibrahimovic, il più pagato fra i giocatori che tiene a libro paga. Entrambi hanno fatto sapere Urbi al presidente e Torbi al mondo che l'Inter deve essere pesantemente rinnovata, che servono corposi investimenti, che non si può badare a spese, soprattutto se si vuol vincere la Champions League. In caso contrario sono pronti a fare le valigie e a cambiare aria, perché se non ci sono le condizioni per farlo non possono perdere altro tempo all'Inter. Beh, insomma, un articolo che comincia così direi che incuriosisce, no? E fa venire voglia di andare avanti. Allora andiamo avanti. Mourinho ha denunciato l'inadeguatezza dei mezzi che gli sono stati messi a disposizione della società e dal presidente già mezz'ora dopo la fine della partita col Manchester, l'avversario che lui stesso aveva tanto invocato perché è sicuro di eliminarlo negli ottavi. Seguono alcune disamine sulle scelte di Mourinho di quest'anno e sui giocatori con cui è entrato in rotta di collisione, e poi continua Fabio Monti. Per accontentare Mourinho, Moratti si era sentito costretto ad acquistare persino Quaresma all'ultimo giorno di mercato e con valutazione fuori mercato per un giocatore sponsorizzato anche dal direttore tecnico Branca. Sembrava che senza Quaresma non si potesse giocare e poi si è vista come è finita la storia. Per questo è possibile che lo stesso Moratti confidi in suggerimenti migliori per la prossima stagione, sempre che il presidente non colga l'occasione dell'incontro verità per chiedere a Mourinho come mai l'Inter, pur vincendo, giochi un calcio mediocre, dove lo schema base è l'asse Julio César, Maicon e Ibrahimovic, con Cambiasso e Zanetti costretti a correre per due. Ci sarebbe poi anche da parlare della condizione atletica post-natalizia mai recuperata, ma sono argomenti troppo tecnici con Mourinho impegnato a litigare con il mondo. Anche Ibrahimovic, conclude poi quest'articolo, vuole una squadra più forte, quella che sarebbe già stato possibile costruire se lui stesso non avesse preteso l'esonero, questo è un passaggio molto interessante, se lui stesso non avesse preteso l'esonero oneroso di Mancini, Roberto, peraltro colpevole di essersi lasciato vincere dall'amarezza dopo l'eliminazione del Liverpool, eccetera eccetera. Che Ibrahimovic sia fondamentale per l'Inter viene scritto e recitato dopo ogni partita di campionato e l'ingaggio, 1 milione al mese, non è fra i più bassi d'Europa. Io trovo molto interessante, ripeto, questo spaccato da parte di persona solitamente informata dei fatti, come si direbbe in linguaggio giudiziario. Maurizio dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Granzini. Dica. Scusi l'emozione perché è una volta che parlo con lei. Beh, ma si rilassa. Augurandomi che sia ancora socio Slow Food, io volevo parlare proprio dell'articolo di Fabio Monti. Sì. Allora, a questo punto, molto sinteticamente le chiedo, ma non è ora che il signor Moratti non più usi la carota, ma prenda in mano la clava? Nei confronti di chi? Ma nei confronti anche di Mourinho, cioè... Mi sembra che il signor Moratti l'ha sempre accontentato in tutto e adesso basta, cioè questo qui è Ibra che viene a pretendere Mari e Monti, fatevi un pochettino di autocritica voi. Giustamente lei ha detto Mourinho ha preteso il Manchester, complimenti, visto il risultato. Attendo una sua risposta in linea. Preteso no, insomma, Mourinho si era augurato provocatoriamente, ma insomma Mourinho è uno che è noto, che provoca, il problema è che poi fa fatica a reggere le conseguenze delle sue stesse provocazioni. Questo sul piano dialettico, figurarsi sul piano calcistico, se dall'altra parte c'è il Manchester. Sul fatto che i contratti siano firmati e non è detto che siano destinati a durare... questo è il calcio di oggi. Scrive Enzo da Città di Castello, una lettera arrivata stamattina. Caro lei, è cominciata la solita solfa di procuratori che battono cassa a nome dei loro assistiti per ritocchi, peraltro previsti da contratti ancora lungi dallo scadere, liberamente sottoscritti da calciatori e società. Avremo in questa vita la gioia di vedere uno di questi pseudo campioni uomini spedito in tribuna fino alla naturale scadenza del contratto firmato in origine? È così difficile rispettare le regole? Beh, sì. Il calcio che ci meritiamo, questo specchio della nostra società? Direi proprio di sì, Enzo. È una società in cui i contratti firmati non è che non vengano rispettati soltanto nel calcio, mi pare che la cosa valga anche per altri mondi. Nel calcio certamente è finita l'epoca delle strette di mano. A me, quando sento di gente che appunto è vincolata da un contratto liberamente firmato fino al 2012, per esempio, visto che stiamo parlando di questa fattispecie, alla modesta somma di circa 1 milione di euro al mese, a me viene sempre in mente il Parón, Mi viene sempre in me che non è una questione di reducismo o di nostalgia, è soltanto un paragone con un'epoca in cui nemmeno i contratti erano firmati, perché quando Rocco vinse la sua prima Coppa dei Campioni, e stiamo parlando del 63, il Milan non andava un granché in quella stagione e quindi non gli offrì il rinnovo del contratto che scadeva quell'anno, erano altri tipi di rapporti, ma insomma alla fine di quella stagione sarebbe stato libero e quindi si accordò con il Torino. Quando poi Rocco vinse a Wembley la Coppa dei Campioni e il presidente allora Andrea Rizzoli, ho detto Andrea Rizzoli, non un presidente qualunque, gli disse: signor Rocco, sono lieto di offrirle il rinnovo con il Milan adesso che siamo campioni d'Europa. Lui lo guardò e gli disse: presidente, io non posso restare al Milan perché mi sono accordato con un'altra società. Ma lei ha firmato qualcosa? gli domandò Andrea Rizzoli. E Rocco rispose: ho fatto di peggio, presidente, ho dato la mia parola. E quando si va a toccare la memoria bisogna essere più precisi di quanto non sia stato io. Bodini era un vice storico di Tacconi, non di Zoff, tant'è vero che alcuni ascoltatori me lo fanno presente e ricordano come invece fosse Alessandrelli, per esempio, un altro storico vice di Zoff e suo malgrado scalda panchine. Di Piloni scrive un ascoltatore da Pescara, che adesso vado a ripescare, ripescare a Pescara non è impossibile, Elio da Pescara, c'è stando un grande portiere qua a Pescara ai tempi di Cadè e Angelillo, che erano gli allenatori dell'epoca. Siamo collegati oggi con Marco Bellinazzo, niente meno che da Bruxelles. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Buongiorno. So che è un collegamento breve perché sei lì per il Sole 24 Ore, ma vista la notizia della riqualificazione della sospensione della pena di Possanzini e Mannini, beh, mi sembrava il minimo per competenza territoriale coinvolgerti. Che cosa è accaduto? Beh, per il momento la squalifica è stata congelata in attesa dell'udienza che si terrà il 3 aprile prossimo, in cui il caso sarà riesaminato. Ricordiamo che è uno dei pochi casi in cui il TAS ha riammesso l'avvio del processo, in quanto la federazione, la FGC, l'Associazione Italiana Calciatori produrranno nuove prove e si spera, insomma, le due società Napoli e Brescia auspicano che la sospensione di questa squalifica sia soltanto il preludio a una revoca della stessa squalifica. Peraltro il clima sta cambiando, in quanto poche settimane fa c'è stato un caso analogo a quello di Mannini e Possanzini in Germania. Alcuni giocatori dell'Hoffenheim, che è una squadra che sta giocando, insomma, ai vertici del campionato tedesco, hanno avuto lo stesso problema, cioè un ritardo all'antidoping. La federazione però li ha semplicemente multati di 75.000 euro senza squalificarli né penalizzare la squadra, e la VADA non ha fatto ricorso al TAS su questo caso, né mi pare abbia intenzione di farlo. Beh, questo è un altro precedente, insomma. E d'altra parte, pare proprio che nei confronti della VADA si stia attrezzando una vera e propria rivolta. Ora, io non so quanto questo sia positivo, perché non perderei mai di vista che il problema è il doping e la lotta al doping è un preciso dovere, ma è anche vero che se si esagera nella severità delle sanzioni, come si è fatto nel caso indubbiamente di Possanzini e di Mannini, tant'è vero che c'è stata questa clamorosa marcia indietro, se si esagera in quello vuol dire, secondo me, mettere in pericolo poi l'effettuazione dei controlli minimi e doverosi a quel punto. Che l'emergenza doping non sia assolutamente superata lo dimostra questa notizia che arriva dalla Francia di controlli a sorpresa che sono stati fatti, però soltanto a fini statistici, su circa 140 atleti di vertici di vari sport, quindi dal calcio al rugby, all'atletica, al ciclismo, e in quasi il 20% dei casi l'esame, diciamo, dei capelli o altri tipi di esami hanno dimostrato che c'è stato un uso di sostanze dopanti. Non ci saranno squalifiche per questi atleti perché, ripeto, era stato fatto un esame soltanto a fini statistici, ma questo dimostra che il problema c'è. D'altro canto, le regole molto rigide che la VADA ha introdotto e che sono attuate dal 1 gennaio del 2009 stanno scatenando, come abbiamo più volte ricordato, certo, una vera e propria rivolta. Tra l'altro, proprio qui in Belgio sono stati 65 atleti di vertice di varie discipline che hanno preannunciato clamorose iniziative, tra cui anche quelle per esempio di rivolgersi alla Corte di Giustizia europea. C'è il diritto alla privacy, ma c'è anche il diritto a uno sport pulito, che è un diritto per tutti quelli che lo seguono, e chiaramente il punto di equilibrio tra queste due esigenze sarà difficile da trovare. Forse le nuove regole introdotte a gennaio non sono questo punto di equilibrio. Ho l'impressione anch'io, è una fase di transizione molto ma molto delicata e a parer mio anche abbastanza pericolosa. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Chiudiamo questo collegamento, buon lavoro a Bruxelles, ti riaspettiamo qua la prossima settimana in studio regolarmente. Molti messaggi, qualche notizia che comincia ad arrivare, una riflessione di Alessandro da Modena che dice: ritorno alle partite di domenica, cioè questo filotto di partite potrebbe essere utile per dare meno fiato le moviole, più calcio giocato e meno tempo per i movioloni. Alessandro, non si illuda, meno tempo magari la domenica, a parte che non è detto, ma poi vorrebbe dire sfogarsi il lunedì, magari creando nuove apposite trasmissioni. Sorteggio delle coppe domani certamente non ci riguarda, se non speriamo per l'Udinese, per i quarti di finale di UEFA. Certo che a Nyon domani a mezzogiorno è abbastanza curioso leggere che sarà Bruno Conti a procedere invitato dall'UEFA a procedere al sorteggio di questi quarti di finale, e vedremo in base a chi avranno in sorte Manchester, Arsenal e Chelsea, vedremo anche con un pizzico magari di rabbia in più quale poteva essere la sorte che sarebbe toccata rispettivamente a Inter, Roma e Juventus. Torniamo agli amici già collegati. Luca, Alessandria, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Mm-hmm. Prima parlavate di contratti e di giocatori che, nonostante abbiano un contratto in mano, comunque alla fin fine non vale niente. Lei si ricorderà sicuramente il caso Iaquinta nell'Udinese. Sì. Dove Pozzo mise fuori rosa Iaquinta, appunto perché gli aveva chiesto l'aumento, se non il doppio dello stipendio, che già parliamo di cifre, insomma, buone. Cosa pensa? Si ricorda che era venuta fuori la storia dell'associazione calciatori, ci sono tutti dati contro Pozzo, ma se un giocatore ha un contratto come ce l'aveva Iaquinta di 800.000 euro all'anno, il fatto che tu, a parte il fatto che devi ringraziare che sei stato scoperto, messo in una squadra di Serie A, hai avuto l'opportunità di andare in nazionale dove prima non ti conosceva nessuno, se non in Serie B dove giocava. Ma lei trova giusto il comportamento di questo calciatore, come di tanti altri? Contratto in mano. Io certo che no, è ovvio che non lo trovo giusto, anzi trovo esecrabile questa moda, e trovo che... Io poi non so se in quella vicenda di Iaquinta fuori squadra per tanto tempo il problema fosse soltanto quello di un rinnovo contrattuale o di una voglia di andare via, ho forti dubbi, però non ha molta importanza. Restiamo alle questioni di principio. Se lei mi domanda se è normale questo, la domanda la risposta non può che essere no, non è assolutamente normale. Mentre invece sì, il fatto che tutti i torti su Bodini non li avevo, perché per esempio Filippo da Catania mi riconosce che Bodini fu l'ultima riserva di Zoff dall'80 all'83, poi in realtà Zoff si ritirò nell'84, ma insomma, diciamo che Bodini, sia pure per un periodo abbastanza breve, è stato anche lui la riserva di Zoff. Ha messo in fila Piloni, Alessandrelli e Bodini, e ripeto, col monumento davanti, che non si infortunava mai, anche perché oltre ad essere un grande atleta e una quercia, era anche una persona seria nella vita privata. Era dura per chi indossava il numero 12, finché l'uno si chiamava Dino Zoff. Da Messina ha chiamato Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. È superfluo fare i complimenti perché insomma è ovvio. Io seguo molto spesso questa trasmissione, però non sento la mia voce. Non si preoccupi, che a noi arriva forte e chiaro. Ok. Dica. Quello che io mi chiedo e mi meraviglia parecchio è il fatto che ci siano tutti questi grandi, e dico veramente grandi, calciatori strapagati, ma perché non si va a fare, per evitare tutto quello che succede nei campi di gioco quasi ogni domenica, perché non si va a cercare di imitare, nel senso buono della parola, il modus facendo dei giocatori di rugby che non si infortunano mai, si allenano parecchio e se il caso non fanno nemmeno una vita tanto da Santarelli, tant'è che c'è il famoso terzo tempo che non è soltanto semplicemente quell'applauso a centrocampo tanto per, ma si conclude con una abbondante bevuta e mangiata. Ecco, io mi chiedo questo, perché questi atleti non si infortunano, giocano e sono e sembrano apparentemente seri, nonostante ci sia anche la moviola in campo che dura 10 secondi, l'arbitro si chiama la moviola. Ecco, dico, come mai non si prova nel mondo del calcio ad applicare una cosa del genere, similare al rugby? Solo questo voglio dire. Ma io credo che il calcio avrebbe molto da imparare dal rugby, credo anche che avesse più da imparare prima, perché mi sembra che il rugby sia su una china non favorevole, su una china anche un po' pericolosa, se è per quello. Se parliamo di grandi traumi, è ovvio che il rugby è uno sport di impatti molto più violenti, anche perché tutti avvengono a grandissima velocità, ma sono però impatti che riguardano sono nella quasi totalità dei casi dalla cintura in su, è un tipo di impatto diverso, sulle gambe è difficile che un rugbista abbia un trauma forte, come invece avviene per il calcio. Sono due discipline diverse che hanno, l'ho detto migliaia di volte, hanno una base di educazione, di approccio e di lealtà dei praticanti e degli osservanti, nel senso più stretto e migliore della parola, talmente diversi come presupposti da rendere incompatibili insomma le due discipline e i paragoni quasi quasi impossibili, direi. Financial coach sicuramente mi mancava, ho colmato una lacuna. Financial coach, credo che l'unica per rimettermi sia da Nicola Filippone, rifugiarmi nel ripasso della storia. Sembra ieri. 19 marzo 1929. Alfredo Binda si aggiudica la 22esima edizione della Milano-Sanremo, infliggendo al secondo classificato, Leonida Frascarelli, un distacco di 8 minuti e 30 secondi. Il ciclista lombardo inaugura con una prova di forza una stagione che lo vedrà dominatore assoluto del Giro d'Italia, dove riuscirà anche ad aggiudicarsi 8 tappe consecutive, inducendo gli organizzatori a pagarlo per non partecipare all'edizione successiva. Dopo l'impresa di Binda nel 29, il 19 marzo diventerà la giornata di riferimento della Milano-Sanremo, che tuttora si disputa nel sabato più vicino a questa data. Vero, tant'è vero, tanto che è in programma dopodomani. È la giornata delle messe a punto. Allora, scrive Luca da Verona, e mi sembra che abbia ragione, Iaquinta fu messo fuori squadra da Pozzo perché all'ultimo anno di contratto non voleva firmare il rinnovo e andarsene a parametro zero. Ecco, adesso sì che ci siamo, e secondo me aveva tutti i diritti Iaquinta di non firmare il rinnovo, per cui è leggermente diversa da come l'ha messa l'ascoltatore di prima, e questa è una precisazione di segno più. Ne trovo un'altra firmata Fede Alessandria, che è un ascoltatore fedele, che invece risegno meno, perché lui scrive errore, Zoff giocò l'ultima stagione della Juve alla Juve nell'82-83, poi forse andò un anno in America, non, cioè, Zoff in America non mi torna, Fede, questo glielo posso garantire. Lei si confonde con Bettega, credo, ma dal numero 1 al numero 11 ce n'erano 10 di mezzo. Ci sono ancora molti altri ascoltatori che vogliono intervenire. Prima volevo soltanto ricordare, anche se non ci riguarda più come calcio italiano, che da domani i sorteggi sono liberi, quindi da quest'urna di Nyon possono uscire due derby inglesi, se vogliamo. Può uscire Manchester-Liverpool, così come si può essere fortunati invece a beccare una delle poche squadre più leggerine che sono rimaste, così come può anche uscire, anche se il calcolo di probabilità suggerisce di no, può anche uscire che le quattro inglesi hanno quattro avversarie diverse e magari si ritroverebbero per la prima volta nella storia a una semifinale, a due semifinali monocromatiche, come dire. Stiamo a vedere. Stefano ha chiamato la Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Senta, io mi ricollego ad una puntata che ho molto apprezzato da lei condotta sull'anniversario, il trentesimo, se non è un anniversario, della morte di Rocco. Sì. e non ho potuto chiamare allora, chiamo un po' più tardi perché era difficile, cioè difficile collegarsi e poter interloquire. Ma questo è l'anno del Paron, al di là del giorno. È l'anno del Paron, benissimo. È anche l'anno, io lo dico da tifoso rossoblu, di Giacomo Bulgarelli. Come no? Di cui lei ha fatto, proprio mi ricordo, ero in viaggio, adesso Bologna ha fatto un intervento davvero molto degno di nota, sintetico ma molto efficace, di commemorazione del nostro Giacomino, appunto, che ha rappresentato la bandiera della nostro glorioso Bologna. In proposito, che le dirò Stefano, per collegare i due personaggi, Stefano è lei, Giacomino Bulgarelli era stato la mezzala destra e Rivera la mezzala sinistra alle Olimpiadi di Roma nel 60 con Rocco allenatore, e da allora, dal 63 in avanti, Rocco praticamente a ogni estate, a ogni campagna acquisti, al Milan, poi al Torino e poi di nuovo al Milan, il primo giocatore che chiedeva era Bulgarelli, perché adorava questo regista di stampo classico, e però non fu mai accontentato, perché Bulgarelli era nato bandiera e da bandiera ha voluto morire, insomma. Sì, ecco, mi porta una considerazione che non conosco, anche perché io sono ancora abbastanza giovane, quindi sì, ripeto, sento memoria, la voce. Quella memoria storica, ripeto, fa parte ancora del suo bagaglio, non ancora del mio. In proposito, la considerazione su cui voleva porre l'attenzione anche sua e chiedere un relativo parere è questa: mi è spiaciuto moltissimo dover prendere atto che il minuto di raccoglimento in memoria di Giacomo sia stato fatto soltanto a Napoli, prima di Napoli-Bologna e naturalmente prima di Bologna-Inter il sabato successivo, quello era doveroso e come dire chiaro, scontato, ma che non si sia degnato nessuno a livello della Federcalcio di riservare un minuto di raccoglimento per un giocatore di tale levatura, parlo morale oltre che calcistica. La cosa che io trovo più però imbarazzante, sì, però andiamo a stringere, è stata la risposta adolescenziale che il presidente della Federcalcio ha dato ad una giornalista bolognese in occasione dei funerali, dicendo: ma non ci abbiamo pensato, secondo me, e chiudo, qui non bisogna pensarci, in una situazione del genere bisogna avere un po' di sensibilità che o la Federcalcio rappresentata da Tizio Calsempronio ha, o in un contesto del genere la Federcalcio o altro organo non ha, e mi sembra che sia completamente mancata. La saluto e la ringrazio caldamente. Grazie a lei Stefano, andiamo a Genova da Marco, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Dica. Io volevo porle un quesito: cosa deve fare una squadra come il Genova, che alcuni mesi balla tra il quarto e il quinto posto in classifica, per avere un pochettino più di spazio nelle trasmissioni televisive? Qua si parla per delle mezz'ore intere del simpatico, tra virgolette, Mourinho, oppure si vedono 15 volte il tocco di mano di Adriano o la gamba tesa di Ibrahimovic, da cui nasce, secondo me, poi una dipendenza dell'arbitraggio che comunque è un pochettino condizionato, dopo che per ore e ore si parlano sempre delle stesse squadre e degli errori arbitrali per queste squadre. Mi è capitato più volte di vedere dei gol annullati a Milito che sono stati forse visti una volta, Marco, massimo due. A me sabato è capitato anche di vedere un'espulsione ridicola di un giocatore del Cagliari e il Genoa vince la partita anche per quello, però. È capitato anche a lei? Questo è vero. Se è capitato anche a lei, ne sono lieto, perché vuol dire cioè, se lei mi parla del super affollamento televisivo, dell'eccessiva attenzione mediatica data o regalata o appaltata o subappaltata alle tre squadre a strisce, con me sfonda, anzi non sfonda niente, perché la porta non è aperta, è spalancata da sempre. Se però questo diventa pretesto per un diciamolo pure, chiamiamolo con le sue parole, che è ottimismo, e che una volta è arbitrale, una volta è mediatico, una volta è cosa, direi che è una, sì, può essere una riflessione conseguente, però non è una riflessione positiva. Marco Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta, due piccole provocazioni. Molto prima, veloci. Sì, sono un tifoso sportivo ed è un ossimoro. Sì, in la pieno. Seconda è questa: in tutti questi anni di Inter abbiamo parlato molto, abbiamo sempre parlato male degli allenatori, dei giocatori, delle campagne acquisto scellerate, ma in tutti questi anni alla testa c'era sempre la stessa persona. Sono tifoso interista, ma io trovo che Moratti forse non sia tutto questo gran presidente. Grande persona, squisita, ma dal punto di vista manageriale mi lascia qualche dubbio. credo che siano dubbi legittimi, che si sono anche stratificati nel corso degli anni, si sono forse un po' alleggeriti, direi, negli ultimi tempi, ma nella vicenda presente al momento mi pare che molte più perplessità suscitino altre componenti interiste e non il presidente in questo momento, direi. Mi spiace per Antonio da Reggio Calabria, lo sentiremo la prossima volta, perché ha sforato un po' chi l'ha preceduto con qualche intervento troppo lungo e è andata così. Grazie a Pietro Lacorte in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, vi lascio al Giornale Radio.